Quando andava a scuola mamma mi svegliava con la sua canzone. E fuori è l'alba. Muore il sogno al sole dentro l'ascensore con la colazione. E il mal di pancia. Dentro le parole c'è la soluzione come scarpe nuove. Così è la vita. E le mie parole cercano l'amore come una canzone. E mi trovai davanti a te, la mia classe vuota è tutto me, la bandiera rossa che ora c'è, ora so perché. L'amore come una canzone che si ri-